con Francesco di Levante, testata dal basso, per parlare del corso d'inchiesta territoriale partecipata a Spasso nel Levante. La prima parte a febbraio prevede il videogiornalismo. Francesco, ben trovato. Ciao a tutti e tutte. Partiamo da Levante, testata dal basso, ci parli un po' del progetto? Certo, con piacere. Il progetto nasce realmente a ottobre, poi nelle nostre teste è quasi un anno che ci ragioniamo, che ci siamo incontrati per impostare un progetto che vuole essere in qualche forma diverso dai soliti e utili sicuramente progetti di informazione del movimento, di controinformazione, ma tentava di entrare all'interno delle dinamiche di una parte di noi, di un quadrante che a Roma Est grande quanto, se non più, anche di città come Bologna, e cercasse di uscire anche poi dalla dinamica dell'emergenzialità, della notizia, del rincorrere la notizia, che sia poi di movimento o no, preferendo un'impostazione di un'informazione più lenta, più calma, più analitica, che andasse ad affrontare una serie di tematiche con approfondimenti, con inchieste, con un focus particolare, ovviamente su un territorio. Quindi per far questo abbiamo deciso di affrontare dei macro temi, quattro fondamentalmente, che abbiamo riscontrato come importanti nella costruzione sia di un territorio, soprattutto nelle contraddizioni del quadrante di Roma Est, che è la questione abitativa, della casa, quindi dalle occupazioni alle case popolari, alle difficoltà anche nel discorso sul caro affitti, passando per il cemento, inteso come la forte urbanizzazione, la forte cementificazione che vive questo quadrante, con una densità di abitanti più alta di Roma, ma tra le più alte anche di tutta Europa, e con un deficit invece di verde rispetto alla città e rispetto anche al resto dell'Italia, e in continue speculazioni sempre su questo territorio. Il terzo tema è il discorso della salute, come determinante fondamentale di un territorio vivibile e accessibile a chiunque, a qualsiasi età, e quindi un focus sia sulla sanità e quindi sull'ASL Roma 2, sui suoi servizi, se non meglio disservizi, sia invece sull'aria che respiriamo, sulla la salute intesa un po' a 360 gradi, non solo la prescrizione del medico. Ed infine la mobilità. Roma Est vede file di autobus sulla Tiburtina, i tram sulla Prenestina, il trenino giallo della Casilina, la nuova metro C, ma nonostante insomma, queste quattro importanti modi di comunicazione presentare, è una mobilità disastrosa, è un continuo traffico e chi si muove sui servizi pubblici sconta il disagio quotidiano. E quindi su queste quattro tematiche provare ad approfondire ogni mese, ogni settimana con focus diversi, come dicevo all'inizio, preferendo un'informazione più lenta e che dia del contenuto e anche degli strumenti, perché no, per attivare nuove lotte, nuove vertenze, per aiutare anche quelle esperienze di comitati di quartiere, comitati del territorio che già esistono. Accanto a questo, e un po' chiudo sul progetto di Levante, una serie di rubriche da Storia Nostra, quindi ripercorrendo fatti storici di questo quadrante, passando per la rubrica Succede anche a, che invece è il tentativo di dare uno sguardo internazionalista, cioè da Roma Est al Nest, da Roma Est ad altre città d'Italia o d'Europa, in cui le esperienze che noi riscontriamo qua le andiamo a raccontare in diverse modalità in altre parti del mondo. La nuova rubrica su matricola 1312, che è il progetto sul carcere, e infine quella rubrica Succede nei territori, alla scoperta del territorio, che vedo un po' il nostro tentativo focus di andare a raccontare in maniera anche di reportage diretto alcuni eventi, alcune situazioni che riteniamo interessanti. L'ultima tra tutte è quella della scuola Maldi a Tor Bella Monaca. Allora, alcune domande tecniche. Su che supporti è fruibile Levante e con che cadenza? Allora, Levante direttamente sul sito www.romalevante.info o andando anche su Google cercando Roma Levante, andando un po' a spulciare, e lì sono pubblicati tutti i contributi che vengono ripresi direttamente da Facebook, Levante è stata dal basso, e anche su Twitter e su Instagram sempre Levante è stata dal basso. Quindi ci sarà un po', proviamo a spaziare su questi entrambi i tre social, diciamo, più importanti, riprendendo sempre ovviamente gli articoli. La cadenza non è fissa, nel senso che di base sulle tematiche più importanti andiamo 2-3 contributi al mese, e le rubriche al minimo un contributo mensile. Comunque nonostante abbiamo iniziato a ottobre, ogni settimana ci siamo trovati a pubblicare contributi diversi che vengono sia dalla redazione, quindi dal gruppo, dal nucleo centrale, sia da esterni che danno una tantum, un loro contributo al progetto. Al momento quante persone fanno parte della redazione in maniera più continua? Ma noi adesso siamo 7 persone in maniera assidua, più diciamo un entourage o persone, insomma, che si occupano di varie tematiche, che ogni tanto sentiamo per darci una mano. Ci presenti questo corso di inchiesta popolare partecipato? Allora, innanzitutto l'idea parte parallelamente al costruire questo progetto editoriale, cioè iniziare il progetto editoriale e subito o subito dopo, come è successo alla fine, mettere in campo un corso di videoinchiesta. Che vuol dire? Vuol dire un corso in cui si insegnano le arti basiche e le tecniche basiche di come si utilizza una telecamera, in cui si fanno dei seminari per andare a capire qual è il metodo migliore per creare poi un'inchiesta stessa, e si va poi ad approfondire il tema dell'inchiesta e si costruisce l'inchiesta a livello pratico, con riprese e via dicendo. Perché nasce proprio con le premesse che facevo sul progetto nostro editoriale, quindi dare un taglio diverso all'informazione, entrare nel merito delle questioni, entrarci realmente e andare a costruire anche nuova informazione, nuovo contenuto, poi estendibile da anche altre persone interessate. Quindi abbiamo lanciato questo progetto pubblicamente, insomma, a gennaio, che si presenta di 4 momenti, come accennavo prima, quasi nello specifico. Un primo momento, che è quello che è già iniziato, con la parte sulle tecniche video, e il 14, che sarà insomma la seconda lezione, avremo con noi Tano D'Amico per fare un approfondimento sull'uso dell'immagine e la filosofia dell'immagine nell'informazione. E poi le ultime 2 lezioni di montaggio e di editing, quindi un po' per acquisire le informazioni di base. A marzo, con degli esperti, cioè giornalisti, videoreporter, andremo ad affrontare gli elementi del linguaggio, delle inquadrature, il come si scrive un'inchiesta, il come si produce l'inchiesta stessa, come e con quale metodo si scelgono i temi che vengono affrontati. Ad aprile invece andremo a focalizzarci sul tema dell'abitare, che abbiamo deciso di affrontare all'interno di questo corso, un po' anche come emblema sia a Roma di complicata risoluzione. L'emergenza abitativa è tale da sempre, da decenni che si parla di emergenza abitativa, da decenni che si occupano le case, si occupano i palazzi abbandonati come risposta all'emergenza abitativa, e da decenni che la politica non trova la soluzione e mantiene la questione abitativa sempre sul lato emergenziale. Insomma, poi ci sono modi in altri momenti di approfondire questa questione, però c'era sembrava un po' emblematica rispetto a un quadrante in cui sono presenti moltissime case popolari, in un quadrante in cui c'è una difficoltà enorme, in cui anche sono molte i palazzi abbandonati e occupati da famiglie, disoccupati, migranti. Quindi un focus sulla questione dell'abitare, soprattutto sulle case popolari, insomma, scandali all'ater, più che gli stacchi di luce e gas, più che una serie di numerosi sfratti, sono nell'ultimo anno soprattutto all'ordine del giorno della cronaca romana, e quindi ci interessava avere un approfondimento su questo tema, e per questo avremo degli scambi, dei confronti ad aprile. civile con gli attivisti dei movimenti per il diritto all'abitare, con uno storico per una ricostruzione della storia delle borgate, delle case popolari, e un focus anche sul discorso della gentrificazione e della turistificazione. E poi alla fine, a maggio, con chi sarà sopravvissuto a questi 3 mesi, andare poi a concretizzare, quindi a fare le interviste, scene di strada e telecamere in mano, andare a parlare con chi riteniamo utile per al fine di costruire questa inchiesta. Ovviamente vuole perché territoriale, perché partecipata, noi non abbiamo, diciamo, un pacchetto preformato che presentiamo alle oltre 50 persone che poi si sono presentate già dalla presentazione di 2 settimane fa e alla prima lezione di giovedì. Vuole essere un'inchiesta che si costruisce insieme a chi si è presentato a questo corso, quindi per questo partecipata e territoriale ovviamente, perché come la nostra redazione si muove su un territorio, anche questa inchiesta si muoverà all'interno di una di coordinate geografiche ben precise. Bene, allora ricordiamo A Spasso nel Levante, corso d'inchiesta territoriale partecipata. Un saluto e un ringraziamento a Francesco Di Levante, testata dal basso. Un abbraccio, un in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie mille, che viva il lupo.